Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria, parleremo anche noi per quello che riguarda l'aspetto economico del vertice sul clima che è iniziato oggi. Ieri arrivati i capi di Stato e di Governo, oggi sono arrivati altri, sono 147 in tutto. E per quello che riguarda i temi di carattere economico, faccio notare che già la scorsa settimana, venerdì scorso, era emerso come sul tema dell'impatto ambientale in realtà l'Europa fosse l'unico delle tre grandi aree geografiche, e mi riferisco alla Cina, agli Stati Uniti, oltre all'Europa, ad aver ridotto le sue emissioni di CO2, mentre Stati Uniti e Cina continuano ad aumentarle. Dov'è, tra virgolette, giustificabile, ma comprensibile nei confronti della Cina, che è un'economia tutta in crescita, tutta in via di sviluppo, con la priorità sull'occupazione, la ricchezza più che sulle emissioni, nemmeno comprensibile negli Stati Uniti, dove il tema ambientale non riesce a diventare parte, poi non dico dell'agenda politica, ma della realtà produttiva di tutti i giorni. Il tema è anche di carattere economico, perché le imprese europee e le aziende europee, per rispettare i limiti di impatto ambientale, hanno dei costi, le quote di emissione e quant'altro. Quindi si rischia, oltre a tutto il resto, oltre all'impatto sull'ambiente, si rischia anche di avere oneri e costi che subiscono alcune imprese che si mettono in regola con la normativa europea, quelle europee, e a fronte di concorrenti asiatici e statunitensi che invece questi vincoli non li hanno. Di questo parleremo anche della polemica che continua a livello politico sulla stima di crescita del PIL, dopo che il ministro Padoan ha detto: attenzione, il rischio di un effetto terrorismo sul PIL c'è, vedremo se riusciremo a tenere lo 0,9% come previsione. Il perché delle polemiche è presto detto: siccome l'Istat nella rilevazione della settimana scorsa era uscita con un PIL italiano cresciuto di solo lo 0,2%, meno dell'attesa dello 0,3%, e un PIL che complessivamente fino adesso col terzo trimestre è cresciuto dello 0,6%, cioè quella che si chiama crescita acquisita. Se anche tu crescessi zero nell'ultimo trimestre, avresti comunque una crescita dello 0,6% già acquisita. Il punto è che secondo le stime si dovrebbe fare un quarto trimestre dell'anno allo 0,8% di crescita per centrare l'obiettivo dello 0,9%. Perché lo dico questo? Perché questi dati sono riferiti al periodo precedente l'attacco terroristico e quello che ne è conseguito a Parigi. Quindi già c'era un rallentamento della crescita, e devo dire che il centrodestra ha gioco facile nel ricordare che il rallentamento era già che il terzo trimestre non era andato bene come da previsioni, quindi adesso il governo non può usare la scusa, diciamo così, del terrorismo, delle variabili internazionali per giustificare una crescita che già si stava registrando più bassa delle attese. Poi casomai uno può dire che oltre a questo ci potrebbe essere un ulteriore effetto terrorismo, ma lo 0,9 diventava già difficile da raggiungere anche senza gli attentati. Spero di essere stato chiaro. Il Premier, comunque, arrivando ieri a Bruxelles, Matteo Renzi, ha detto: confermiamo le nostre previsioni sul PIL. Di questo parleremo. E poi, per quello che riguarda la cronaca della giornata economico-finanziaria, continua anche oggi, è l'ultima tappa, la missione del sistema Italia in Iran. Avviene in un momento chiaramente delicatissimo, nessuno poteva immaginare quando è stata predisposta come conseguenza della fine, o meglio della fine parziale dell'embargo verso l'Iran. Dicevo, nessuno poteva immaginare che si sarebbe realizzata in questo clima, però faccio notare che sono 181 imprese guidate come delegazione dal vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, tra cui Enel, Telecom, Danieli, 20 associazioni di categoria, 12 gruppi bancari, che stanno incontrando le varie controparti iraniane. L'Italia resta il partner commerciale del paese, è il secondo partner europeo dell'Iran, è il nono partner commerciale a livello mondiale. Anche di questo parleremo. E poi, come sempre, per quello che riguarda diciamo, i temi dell'attualità, ancora polemiche, prese di posizione sulle dichiarazioni di venerdì scorso del ministro Poletti, che ha detto: attenzione, misurare il lavoro con l'ora, con l'orario, l'ora lavoro è uno strumento vecchio per i contratti. A fronte dei cambiamenti tecnologici, l'orario non sia l'unico riferimento. Lo ascolteremo. Risposta molto dura della Camusso. E invece una certa apertura, o comunque almeno non un non si può fare da parte della CISL, del segretario generale dei metalmeccanici della CISL, Bentivogli, che ha detto: beh, Poletti non ha tutti i torti. Cerchiamo di capire con il diretto interessato perché. 349-238-6666 per i vostri sms e anche per scrivere su WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Avremo anche uno spazio sull'iniziativa che domani è presente su Sole 24 Ore, cioè il primo fascicolo del vocabolario dell'economia. Voi sapete che questo programma cerca modestamente di fare anche divulgazione dei termini economici, non sempre ci riusciamo, e chiedo venia, ma domani Sole 24 Ore porterà in edicola, e lo porterà per 10 uscite, un dizionario, il vocabolario dell'economia, quindi le parole chiave per capire il mondo dell'economia, della finanza e del diritto, spiegate come sempre in maniera semplice ed efficace. Domani si inizia con il tema banche e finanza, ma più avanti ne parleremo. Partiamo subito con le notizie in breve, partiamo dalla borsa. La borsa oggi a Milano è positiva, devo dire in linea con il resto d'Europa, più 0,70% Milano, più 0,70% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,1% adesso Londra, e invariata l'America. Euro debole, nel senso a 1,0560 per quello che riguarda la moneta unica, e su questo faccio notare che oggi c'è un recupero anche dei titoli legati al settore lusso: Ferragamo più 4,90, Moncler più 2,60, Yoox Net-a-Porter più 2,15 e poi ancora Campari più 1%, bene nel settore non lusso A2A più 1,76% e ancora Intesa San Paolo più 1,5%, Mediolanum più 1,30, Eni più 1,20, Exor più 1% come CNH Industrial. Negativa invece Mediaset dell'1%, Monte dei Paschi dello 0,80 come Tolls. Per quello che riguarda l'economia internazionale, oggi non ci sono molte notizie. Il grosso è il vertice sul clima, di cui ci occuperemo fra poco. E poi per quello che riguarda l'India, invece, visto che stiamo commentando da settimane l'indebolimento dei famosi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, l'India invece ha confermato un terzo trimestre in linea con le attese, più 7,4%, e dei BRICS è l'unica che non ha problemi in questo momento. Nel secondo trimestre aveva fatto un più 7%. I dati economici che ci portano poi anche al dibattito, polemica politica sul PIL. Oggi la Germania ha avuto un dato sull'inflazione in cui i prezzi al consumo in Germania iniziano un po' a salire, più 0,3%. E dopo lo 0,2% di ottobre. In Italia invece tutto questo non si vede, anzi l'inflazione a novembre ha frenato, meno 0,1% rispetto a novembre del 2014 e una riduzione anche rispetto al valore registrato ad ottobre. Sono i servizi ricettivi e ristorazione e anche gli alimentari ad avere contribuito a questo calo dell'inflazione, o meglio meno 0,4 sul mese, più 0,1% sull'anno. Il carrello della spesa infatti a novembre è cresciuto dello 0,3% rispetto a ottobre e dell'1,5% rispetto a novembre 2014. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore. La firma oggi è del vice direttore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Promuovi il tuo business con i servizi di Nuvola Store di Team Impresa Semplice. Con contatti Power e Vetrina Power dai più valore ai tuoi clienti e alla tua attività sul web. Info su nuvolastore.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Brusca frenata dell'inflazione a novembre. Potrebbe sembrare una buona notizia perché i prezzi non aumentano, ma in realtà non lo è. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi diminuisce dello 0,4% rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,1% nei confronti del novembre 2014, con una riduzione di 0,2 di punto percentuale rispetto al valore registrato a ottobre, che era un più 0,3%. Questa è la foto numerica, purtroppo si tratta del dato tendenziale, cioè quello che misura lo scostamento annuale, che risulta minimo dal maggio scorso. Stavolta a pesare sul calo è soprattutto la riduzione dell'ampiezza della crescita tendenziale nei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, più 0,4% da più 1,4% di ottobre. È dovuta poi alla diminuzione registrata soprattutto dai servizi ricettivi e della ristorazione. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa aumentano dello 0,3% a novembre rispetto al mese precedente e dell'1,3% su base annua, in rallentamento quindi dal più 1,5% di ottobre. Ma perché quindi questi dati non sono una buona notizia? Perché significa che non abbiamo ancora superato l'ansia da deflazione e che la domanda interna non dà quei segni di vitalità che invece dovrebbe dare. Sul fronte europeo è chiaro che questi segnali di non ripartenza dell'inflazione fisiologica indurranno la BCE a irrorare ancora di più il mercato di liquidità. Ma sul fronte interno, nel momento in cui l'export mostra segni di cedimento, è decisivo il rilancio dei consumi interni per garantire alla crescita di camminare su gambe robuste. Purtroppo quelle gambe sono ancora gracili e rischiano di diventare ancora più deboli visto il clima di guerra al terrorismo e la psicosi inevitabile che questo si porta appresso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Già preso i propri impegni, l'Italia comunque sta andando nella giusta direzione e l'Italia sta già facendo quegli sforzi che ne fanno una delle nazioni leader in questo settore, quindi l'Italia non ha niente da temere e io credo e confermo che il PIL andrà a crescere, non a rallentare. No, non sono preoccupato per questo, paradossalmente sono preoccupato molto di più per la tenuta del pianeta. Qui in ballo non è tanto la tenuta del PIL, è un sistema di equilibri che non tanto l'Italia o l'Europa, ma il mondo intero rischia di non rispettare se tutti i paesi, dalla Cina all'India, al Sudafrica, all'America, alle Americhe, fino all'Europa, non rispetteranno. Dunque è assolutamente cruciale che si raggiunga un accordo, ma non ho nessun timore per il prodotto interno lordo italiano, anzi l'Italia ha già messo in campo molte iniziative positive in questo senso. Allora, così il premier Matteo Renzi poco fa, 3 ore fa da Parigi a fare il punto stampa dopo i primi incontri della mattinata. Il tema sullo sfondo è la crescita italiana dopo le dichiarazioni del ministro Padoan. Riferito alla stima della crescita, siamo in collegamento con l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Guido, buonasera. Buonasera. Devo dire che insomma la polemica è stata soprattutto Brunetta, se ho visto bene, a portarla avanti con il governo. Obiettivamente, vedo molti ascoltatori che chiedono, ma insomma, o che scrivono, si tratta del classico mettere le mani avanti. Io non so se sia stato un errore di comunicazione, però nel momento in cui il ministro dell'economia Padoan ha detto attenzione, dal terrorismo potrebbe arrivare un rallentamento della crescita, a mio avviso, Guido, però chiaro che voglio sentire la tua opinione, si è esposto alla critica perché la settimana prima era già arrivata una stima, anzi un dato dell'Istat di una crescita nel terzo trimestre dello 0,2% che già rendeva difficile, non impossibile, ma molto difficile mantenere l'obiettivo dello 0,9. Ora, a nessuno cambia nulla se tu fai lo 0,9 o lo 0,8. È più forse un tema politico di dire non iniziate a mettere le mani avanti utilizzando il terrorismo per un rallentamento che si era già verificato nella crescita nel terzo trimestre quando degli attentati a Parigi non verrà chiaramente nessuna traccia. Sì, è stato un, diciamo, un piccolo scivolone, probabilmente forse solo mediatico, ma comunque le cose, diciamo, sono abbastanza chiare. Cioè il dato su il terzo trimestre che ci ha comunicato l'Istat era diciamo diversi giorni prima dell'attentato di Parigi e indicava già un rallentamento, il famoso più 0,2 rispetto al più 0,3 atteso, e appunto si fece allora la ovvia considerazione che il PIL nell'ultimo trimestre sarebbe dovuto crescere dello 0,8-0,9% per arrivare alla cifra che sta scritta nella legge di stabilità, quindi è quel famoso più 0,9 o 1% come addirittura sperava Renzi. Poi quel giorno stesso ci fu una nota del Ministero dell'Economia che diceva: attenzione, aspettiamo il dato su il fatturato dei servizi, perché forse da lì potrà arrivare qualche sorpresa positiva e quindi forse sarà rivisto a rialzo. Ecco, poi quel dato è arrivato ed è arrivato proprio in coincidenza più o meno con le ore dell'attentato di Parigi, e quindi è stato un po', diciamo, dimenticato giustamente, ma quel dato lì sul fatturato dei servizi indicava anche lì, diciamo, un dato un di rallentamento. Crescita, rallentamento. Un rallentamento della crescita, non una recessione, ma lo dico, esatto, ascolto, un rallentamento della crescita. Certo. Un rallentamento della crescita, quindi come dici te, forse non sarà 0,9, sarà 0,8, sarà 0,7, ma insomma questo, diciamo, è l'ordine di grandezza. Certamente su tutto questo non ha nulla a che fare il terrorismo, l'attacco a Parigi, che semmai eventualmente dopo peggiorerà la situazione, speriamo di no. Ma questo è il punto. Cioè è sembrato politicamente, mediaticamente, voler mettere le mani avanti. Sì. Lo dico perché a me non frega nulla di fare le pulci al governo sullo 0908, non è da qui che cambi il paese. Oggi ho visto che Padoan ha detto: beh, un po' più di inflazione sarebbe utile per il nostro debito. Ha ragione il Ministro dell'Economia. Una cosa che voglio spiegare anche agli ascoltatori: la deflazione o i prezzi fermi possono piacere lì per lì, però hanno due piccoli problemi. Il primo, che se uno sa che i prezzi sono fermi, è dimostrato storicamente, o che addirittura sono in calo, rimanda gli acquisti, perché aspetta che i prezzi, aspetta i prossimi prezzi in calo, e quindi c'è una depressione dei consumi. Il secondo aspetto molto negativo per noi come Stato è che se tu hai un po' di inflazione, il debito ti costa meno in termini reali. Facciamo sempre come esempio: se tu hai 1000 euro di debito e un'inflazione, avessi un'inflazione al 5%, l'anno dopo ne paghi 5 in termini reali, il tuo debito è sempre di 1000 euro, ma vale il 5% in meno. Se tu invece non hai l'inflazione o è a zero, addirittura vai in deflazione, il tuo debito non si diminuisce come valore reale, o addirittura delle volte aumenta anche se sei in deflazione come valore reale. Tutto questo però, Guido, per chiedere una cosa, cioè gli ascoltatori dicono: attenzione, qui facciamo lo 0,7, 0,8, 0,9, se nonostante un petrolio a $42, l'euro a 1,05 e Mario Draghi che continua a acquistare titoli di Stato, i tassi di interesse bassissimi. Bisogna stare attenti, perché cosa capiterebbe se non ci fossero queste condizioni esterne? Eh beh, certo, infatti per esempio ci sono, nei giorni scorsi sono stati anche comunicati dei possibili, diciamo, dei trend su, per esempio, vedono una crescita del prezzo del petrolio. Quindi da questo punto di vista andiamo verso una situazione più complicata, certamente, così come è più complicata la situazione politica internazionale. Questo non c'è bisogno di dirlo, per quello che stiamo vivendo, diciamo, in queste settimane. Quindi voglio dire, abbiamo davanti certamente più incognite che certezze, e quindi la somma di 0,1 su questo, lo 0,2 sull'altro, l'inflazione che non sale e non si avvicina a quel famoso 2% che è voluto, diciamo, da Draghi, certo. Voluto da Draghi, e diciamo è che l'Europa si pone come obiettivo, e questo è l'obiettivo della BCE. Beh, insomma, ovviamente la situazione va valutata per quello che è, e quindi una situazione che in questo momento più a rischio che non portatrice di certezze positive. Ecco perché poi sarà anche importante vedere come butterà l'anno, perché la scommessa di Renzi levando l'IMU, è inutile che io ripeto ogni volta che personalmente riteniamo, molti economisti sono con me, diciamo, o io sono con molti economisti, che sarebbe meglio ridurre IRPEF e IRAP, però il problema è che il tema del ridurre l'IMU, Renzi l'ha sempre spiegato per dare un segnale di fiducia ai milioni, all'80% di italiani che è proprietario della sua casa. Il problema è che se tu poi questa fiducia non la respiri nel resto dell'economia, anche l'effetto IMU non ce l'hai, mentre avresti avuto un effetto probabilmente diretto sulla riduzione della pressione fiscale in busta paga, perché lì hai gente che ha la trattenuta alla fonte e quindi la busta paga, non c'è evasione nella busta paga. Ecco perché dico attenzione, perché l'IMU si giustifica se poi migliora il clima di fiducia complessivo, se no quei soldi che risparmi dall'IMU te li tieni in banca o sotto il materasso. Vedremo domani l'indice che come ogni anno sviluppa UVET American Express, che ha una correlazione molto stretta con l'andamento del PIL reale, cioè è un indice che è legato ai viaggi d'affari, però ogni anno ci azzecca sulla previsione dell'anno futuro. Vedremo domani che risposte ci darà. Guido, nel salutarti, tutto questo secondo te, al di là di un po' di scintille politiche, ma non dovrebbe cambiare comunque la tabella di marcia del governo? Non rende il tutto però più urgente alcune riforme che devono sgravare le nostre imprese da costi impropri, burocrazia e pubblica amministrazione? Sì, lo rende certamente più urgente, anche perché abbiamo definitivamente archiviato il tema, diciamo, del calo dell'IRES, diciamo, che arriverà quando nel arriverà 2017, dai. Nel 2017, quindi questo si è confermato, diciamo, come rinvio, e quindi vuol dire, a maggior ragione, essendo, diciamo, anche il peso fiscale, diciamo, così forte, l'abbiamo visto i dati anche del giorno scorso sulle piccole e medie imprese, quanto pesa il fisco, beh, insomma, non potendo da lì aspettarsi delle grandi rivoluzioni, quantomeno ci si potrebbe attendere, diciamo, un'accelerazione sul terreno, diciamo, sul modo di fare impresa, sulle possibilità di fare impresa, e quindi fa scendere drasticamente la burocrazia, fa scendere gli oneri amministrativi, insomma tutto quello, certo, che impedisce di fare impresa in questo momento. Sì, è stato tema, ci sono delle riforme a costo zero, ne parlammo già ai tempi di Monti, di Letta, la riforma della burocrazia, quando lanciamo l'idea dell'autocertificazione per le imprese, come avviene per i cittadini, una Bassanini per le imprese, tu, a parte la garanzia, diciamo, dell'agibilità dei vigili del fuoco, parti, autocertifichi che sei in regola con tutto, impatto ambientale e quant'altro, e poi ti vengono a fare le ispezioni e i controlli, ci mancherebbe. E poi tutti gli oneri, li abbiamo raccontati la settimana scorsa, tutti gli oneri delle pratiche burocratiche, delle ore che vengono destinate per gli adempimenti burocratici, quello è a costo zero, cioè, o meglio, chi si oppone forse solo alla pubblica amministrazione, laddove vede in questo un rendita di posizione, ma sono gli unici. Intanto grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Vedo molti temi e molti messaggi sull'inflazione. È chiaro che se aumenta l'inflazione aumentano anche un po' i tassi di interesse e i finanziamenti vengono erogati a un maggior tasso di interesse. Infatti nessuno dice che l'inflazione debba andare al 5%. La Banca Centrale Europea stima da sempre, non da adesso, che l'inflazione buona è quella intorno al 2%. Né troppo sopra né troppo sotto. E poi attenzione che in questo momento l'assenza di inflazione preoccupa non solo per il debito, o non tanto per il debito, ma preoccupa perché vuol dire che i consumi non stanno ripartendo come si vorrebbe. Se i consumi ripartissero, tu dovresti avere uno strappo o delle tensioni su quei prezzi. Ora è vero che i generi alimentari hanno fatto più 1,5%, ma a più 1,3% contro l'1,5% di ottobre, ma è un dato ancora basso. Se fossero ripartiti i consumi avresti dovuto vedere un dato ben più alto sull'inflazione dei generi di maggior consumo. Comunque 349-238-6666 per gli sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Qualcuno dice che Padoan sta facendo campagna elettorale, Renzi pure. No, penso anch'io come Gentili che sia stato un errore di comunicazione, un fraintendimento di comunicazione, cioè dare l'impressione che stai usando il terrorismo per mettere le mani avanti perché la crescita non sarà quella che prevedevi, quando già i dati dell'Istat del terzo trimestre ti avevano fatto capire che, ragazzi, non è che possiamo fare 0,3 il primo trimestre, 0,3 il secondo, 0,2 il terzo e improvvisamente 0,9 il quarto. Cioè, tutto è pensabile, ma è come se io credessi che l'Hellas Verona improvvisamente inizia a vincere tutte le partite del campionato nonostante stia a 6 punti. Vediamo se l'esempio si è capito, sicuramente l'hanno capito i tifosi dell'Hellas. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. minuti. Allora vedo che qualcuno mi scrive, insomma, cosa fa lei quando enfatizza i dati positivi che sono balle e fa passare come scivoloni mediatici i dati negativi. Guardi che non c'è nessun dato negativo, c'è una dichiarazione del ministro Padoan che ha creato, diciamo, un po' di botte risposta politica, ma non c'è nessun dato negativo. L'unico dato che abbiamo sul PIL è quello che abbiamo raccontato 2 settimane fa, più 0,2% sotto le attese, crescita acquisita dello 0,6, difficilmente si arriverà allo 0,9 previsto dal governo. Il resto è, diciamo, anche evitare, ecco perché che parlavamo di scivoloni mediatici. Comunque, se poi sembra che io abbia fatto così, abbia citato poco il dato, l'obiettivo dello 0,9, ho fatto un paragone con la squadra di calcio che è penultima in classifica, cosa devo fare di più? Comunque andiamo avanti, spostiamoci a Parigi, dove chiaramente sono entrati nel vivo i lavori del COP21, la conferenza delle parti. Il titolo è veramente di quelli astrusi che nessuno capisce niente. In realtà ci si occupa di clima e si vuole arrivare all'11 dicembre, che è il giorno finale, con un accordo sulle emissioni climatiche. Chiudere l'accordo globale sul clima, riduzione delle emissioni dei gas serra, ossia mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi. Faccio notare che la scorsa settimana i dati diffusi dal Joint Research Center della Commissione Europea vedevano da un lato l'Europa aver ridotto del 5,4% le emissioni di CO2, mentre gli Stati Uniti continuano ad aumentarle, più 0,9% negli Stati Uniti, più 0,9% anche la Cina e più 7,8% l'India. Ci colleghiamo con la nostra inviata Cristina Carpinelli. Buonasera Cristina. Buonasera Sebastiano. Allora, in effetti... Prego. Dimmi. No, è stata una conferenza, l'apertura di questa conferenza oggi che ha avuto inizialmente molto pathos legato a quello che ha vissuto agli attentati di Parigi del 13 novembre scorso e che quindi ha ribadito per voce dei capi di Stato presenti oggi il messaggio della solidarietà che vince la barbarie. E poi il tema di cui parlavi tu, il clima, quindi il contenimento dal 2020 del riscaldamento globale sotto i 2 gradi, un'idea che era già nata nel vertice precedente di Copenaghen che però non era mai stata ratificata. Allora oggi in realtà molte cose sono cambiate. Intanto per esempio è cambiato il modo di lavorare, perché a questa conferenza i singoli paesi sono arrivati con una lista di intenti, di promesse, no? E su questo si negozierà e poi bisognerà vedere se questi intenti e queste promesse raggiunte nei negoziati saranno vincolanti e aggiornati in base alla situazione contingente, quindi con degli incontri periodici. Quella che potrebbe iniziare, ha ribadito il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, è una nuova era industriale, perché appunto si giocherà molto sulla la partita più importante è sulle rinnovabili e soprattutto sugli investimenti nei paesi in via di sviluppo. E ascoltiamo allora, visto che tu lo citavi, il Ban Ki-moon, quindi il segretario generale dell'ONU, che fa gli onori di casa assieme chiaramente anche al premier Hollande, e abbiamo detto abbiamo bisogno di un accordo significativo e forte, come tu ricordavi, per stare sotto i 2 gradi. Let us build a durable climate regime. Abbiamo bisogno di un accordo duraturo sul clima e con regole chiare dei percorsi che ciascun paese dovrà seguire. Parigi rappresenta un punto di svolta decisivo. Stiamo andando incontro a un futuro a più bassa emissione di CO2 e non si può tornare indietro. Il piano climatico internazionale è stato firmato da più di 180 paesi, che rappresentano quasi il totale delle emissioni di CO2 nel mondo. Questo è davvero un buon punto di partenza, ma dobbiamo andare ancora più avanti e ancora più velocemente se vogliamo far diminuire il riscaldamento di 2 gradi. Questo appunto l'obiettivo, le emissioni sotto i 2 gradi. Adesso abbiamo il traffico, poi Cristina vorrei capire, in realtà è ovvio che l'obiettivo è condiviso da tutti, poi nella concretezza abbiamo un'Europa che ha delle leggi molto severe sulle emissioni, devi pagarti le quote di emissioni, infatti i risultati si vedono, meno 5,5%, e poi Cina, India e soprattutto Stati Uniti, che sono meno giustificabili in quanto non sono economie emergenti, che le emissioni non le hanno ridotte proprio, anzi le hanno aumentate, con la conseguenza che molti imprenditori ci scrivono, ci hanno scritto, ha un costo questo per gli imprenditori europei stare in questi limiti, e soprattutto rischia di mandarti fuori mercato se anche gli altri non lo fanno, cioè rischia di esserci una concorrenza sleale da parte delle imprese americane, per non dire cinesi e indiane. Dopo il traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Allora Cristina, resta il tema di un'Europa che si è mossa con tutte le leggi, le direttive sulle emissioni, mentre Stati Uniti e i paesi emergenti, insomma dai dati che abbiamo commentato, ancora devono iniziare. Ma è per questo che si sta puntando ad ottenere un accordo vincolante, cioè che quindi obblighi tutti i paesi a rispettare le leggi che si sottoscriveranno qui a Parigi. Poi c'è da dire che le cose veramente nel giro di pochissimo tempo sono cambiate, e sono cambiate per tutti, perché la Cina, che fino a qualche tempo fa si opponeva anche alla riduzione dei gas serra, adesso si ritrova a gestire un problema gravissimo di inquinamento atmosferico con migliaia di persone che muoiono, quindi ha delle pressioni fortissime dal basso, e soprattutto la Cina ha cominciato a vedere il business della green economy, quindi ha cominciato a investire sulle rinnovabili e sta cominciando a giocare un ruolo anche di leader in questo senso. Quindi tra l'altro l'intervento molto atteso del presidente cinese qui a COP21 ha confermato in qualche modo quella che sarà la tendenza della Cina per i prossimi anni, quindi l'impegno a ridurre gas serra e ad arrivare a 2 gradi sotto il riscaldamento globale. L'altra persona, prego. Sì. No, dimmi. L'altra persona, l'altro leader veramente centrale in questa COP21 è Obama, il presidente Obama, che si era già speso molto a Copenaghen, dove però non si era arrivati alla ratifica dell'accordo, e che oggi è proprio arrivato assumendosi anche delle grandi responsabilità come rappresentante degli Stati Uniti, ha detto esattamente quello che dici tu, ha detto noi non ci dimentichiamo di essere una delle potenze. Ascoltiamo l'Obama, perché appunto anche questo ci è arrivato, dove dice qui: confermiamo il nostro impegno per sostenere i paesi che decidono di saltare la parte sporca del loro sviluppo. Poi un commentino Obama glielo do però su questo, perché tra i paesi che ancora utilizzano la parte sporca dello sviluppo ci sono gli Stati Uniti d'America, che hanno delle emissioni sempre in crescita, quindi cioè è facile fare qualcosa con qualcosa degli altri. Obama: tutte le nazioni condividono il senso di urgenza nei confronti della sfida climatica e anche una crescente consapevolezza che siamo in grado di fare qualcosa. Nessun paese, grande o piccolo, ricco o povero, è immune davanti a questo problema. Siamo la prima generazione che sente gli effetti del cambiamento climatico e siamo l'unica che può fare qualcosa. Sono venuto di persona come rappresentante della prima economia mondiale e del secondo inquinatore per dire che noi, gli Stati Uniti, non solo riconosciamo il nostro ruolo nell'aver creato il problema, ma che ci assumiamo anche la responsabilità di fare qualcosa in proposito. Negli ultimi 7 anni abbiamo fatto investimenti ambiziosi nell'energia pulita, abbiamo ridotto notevolmente le nostre emissioni, abbiamo moltiplicato l'uso dell'energia eolica e solare, creando zone in cui l'energia pulita costa meno di quella sporca e convenzionale. Siamo la prova che una crescita economica forte e un ambiente più sicuro non sono in conflitto, anzi, possono lavorare di concerto. E questo ci dà speranza. Uno dei nemici da combattere è il cinismo, cioè la convinzione che non possiamo fare niente contro i cambiamenti climatici. Qui a Parigi riconfermiamo il nostro impegno per sostenere i paesi che decidono di saltare la parte sporca del loro sviluppo. Qui a Parigi dobbiamo anche garantire che le risorse vadano ai paesi che più hanno bisogno di aiuto. Allora, per concludere, adesso ripeto, i lavori andranno avanti fino all'11 dicembre, l'obiettivo, lo chiarisco a tutti, è arrivare al, come abbiamo chiesto in apertura, a mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi da qua al 2020, e la chiosa in realtà su Obama l'ho già fatto, gli Stati Uniti fanno bene a ricordare questo, però devono ricordarsi che continuano a aumentare le loro emissioni di CO2, quindi tutto l'approccio che Obama ricorda non si è verificato. Occorrono leggi, anche leggi impopolari, costi per le imprese. Ho capito che in America ci sono le lobby, mentre in Europa decide Bruxelles e poi noi applichiamo le direttive, però se no c'è anche una concorrenza scorretta. Cristina Carpinelli, che cosa capiterà nei prossimi giorni? Oggi diciamo la grande parata dei capi di Stato. Oggi c'è stata la grande kermesse, esatto, e da domani, ma in realtà già ieri, i negoziatori sono al lavoro, quindi ci saranno incontri, riunioni, incontri bilaterali, ogni negoziatore ha un pacchetto su cui lavorare, poi ci sono delle riunioni plenarie nelle quali si verificano appunto i passaggi che si sono ottenuti nel corso delle negoziazioni, e si avanza così passo per passo. Ovviamente io ho parlato con molti negoziatori di diverse parti del mondo, sono tutti molto ottimisti, soprattutto sulla possibilità di arrivare a una ratifica di un accordo vincolante. C'è invece meno ottimismo sulla possibilità che si arrivi poi a una verifica periodica di questi accordi, cioè quindi che ci sia trasparenza, sì, per i singoli stati che hanno firmato questo accordo, ma comunque bisognerà aspettare la fine per riuscire a capire come. Allora, dicono a Milano, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Già la ratifica dell'accordo sarebbe qualcosa. Certo che se poi non unisci anche una capacità di verifica e controllo, poi uno firma l'accordo, casomai cioè, lo vanifichi o non riduci l'impatto notevolmente. Intanto grazie alla nostra Cristina Carpinelli in collegamento da Parigi, o dalle Bourget, perché poi non dice Parigi, in realtà le Bourget è a un'ora più o meno, se non ricordo male, di macchina da Parigi. La borsa intanto, iniziamo con l'analisi, poi dopo GR24 il resto, più 0,60% la chiusura di Milano, più 0,60% anche Parigi, più 0,80% Francoforte, meno 0,30% Londra. Oggi vi dovrete accontentare di me in recupero del titolo del lusso, grazie anche a un euro a quota 1,05,60, ma anche da un report positivo nel caso di Ferragamo, BNP Paribas. Erano comunque stati un po' penalizzati i titoli del lusso, Ferragamo più 5,28, Yux Net-a-Porter più 2,60, Moncler più 2,20 e poi Luxottica più 1% come Campari. Gli altri titoli dopo GR24, 349-238-6666 per scrivere su WhatsApp e gli SMS, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, Saramini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Dal 4 dicembre Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà. Il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavo commentando la giornata di borsa, al di là del lusso che oggi è in recupero sia per valutazioni positive nel caso di Ferragamo, ma in generale per un po' di rimbalzo del settore. Oggi anche A2A va bene, più 1,70%, ci sono attese sugli sviluppi della fusione con Linea Group. Per quello che riguarda invece la vicenda Eni Edison, ossia Eni deve pagare 1 miliardo ad Edison per il disallineamento dei prezzi del gas libico, Eni ha un po' recuperato, in realtà aveva reagito male, ma poi ha recuperato e chiude con un più 0,70%, mentre il titolo Edison sulle risparmio ha guadagnato oltre il 7%, 7,1%. Poi il gruppo Telecom Italia, che fa notizia al di là della borsa in questo periodo, il titolo è negativo dello 0,65%, attese per le mosse di Vivendi, salgono i titoli delle cosiddette torri, quindi Inwit, Rai Way in primo luogo. E per quello che riguarda i titoli in negativo oltre a Telecom, citiamo anche dell'unico incontro tendenza TODS, -1,1%, Mediaset, -1%, TODS l'unico del settore lusso incontro tendenza, Buzzi Unice, -0,70%. Migliori e peggiori in assoluto oltre a Edison, Saez Getters +9,50, Pininfarina +5,48 e poi appunto A-Towers +4,52%, anche Fincantieri va bene oggi +4,76%. Il fronte opposto era rappresentato da Meridie -8,50, Digitouch -4,80 e Gala -3,40%. E vedo che ci sono già dei messaggi del risparmio, ecco. Proprio quando commentiamo la borsa, la necessità di essere chiari sui termini e divulgativi sui termini economici è per noi una più che una necessità, un obbligo, quasi un obbligo deontologico. Lo dico perché? Perché delle volte ci criticate, di, siete troppo tecnici, io. Altre volte ci criticate perché dite, lei parla in maniera imprecisa. Allora, dico subito che preferisco essere un po' impreciso, ma fammi capire, che non essere precisissimo, ma avere... i 25 ascoltatori del Manzoni. Però domani Sole 24 Ore come quotidiano parte con un'iniziativa che durerà 10 puntate, 10 puntate è un refuso mio, che verrà legata per 10 edizioni del quotidiano proprio sui termini economico-finanziari. Marco Mariani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Di cosa si tratterà adesso? Poi uno domani se lo va a comprare così lo vede, ma in realtà l'obiettivo è divulgare ancora di più, se ho ben capito, i termini economico-finanziari? Esattamente, quello di fornire un filo rosso che colleghi attraverso le parole nuove, tutti i fatti economici che sono portati alla ribalta dall'attualità. Questo, da domani noi proponiamo un vocabolario in 10 fascicoli o 10 quaderni, ciascuno dei quali propone dalla A alla Z un gruppo di parole appartenenti ad un'area tematica. Si inizia domani con banca e finanza e si prosegue poi mercoledì con l'area del diritto e della regolazione, e così poi proseguendo per tutto il mese di dicembre, sempre con due uscite settimanali, il martedì e il mercoledì. Questo vocabolario nasce dall'esperienza quotidiana del Sole 24 Ore, da un impegno preso con i lettori di non dare mai nulla per scontato nell'informazione economica, anzi di fermarci ogni volta che ci imbattiamo in una parola nuova, in un concetto difficile, spesso come capita per tutti i termini dell'area economico-finanziaria derivanti dall'inglese, e segnalando il significato di questa parola. Da questo impegno è nata questa raccolta di parole che, come dicevo, proponiamo ogni martedì e mercoledì, raggruppate per aree tematiche. Bene, quindi domani la prima si inizia, come tu ricordavi, Marco, con banche e finanza, e poi tutti gli altri temi, visto che si andrà dall'economia alla finanza e anche al diritto, ogni martedì e mercoledì con il Sole 24 Ore. Grazie Marco Mariani. Ora da Parigi, anzi abbiamo iniziato con Roma e il ministro Padoan, poi Parigi, l'iniziativa del Sole, da Parigi a Teheran. Uno potrebbe dire sì, vabbè, certo, c'è anche, insomma, il volo può essere un po' pindarico. In realtà una missione fondamentale da quando l'Iran l'accordo tra Iran e Stati Uniti, non solo, ha levato parte delle sanzioni verso l'Iran, molti paesi si sono, non dico affrettati, ma delle volte anche precipitati a fare le prime missioni. Questa missione, che si conclude con oggi italiana, in realtà è la seconda dopo le prime di carattere più politico, ed è una missione molto imprenditoriale, perché al seguito del vice ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda vi sono 20 associazioni di categoria, 12 gruppi bancari e 181 imprese, tra cui Enel, Telecom, CNH e Danieli, per un paese, l'Iran, di cui noi siamo il secondo partner commerciale europeo, il nono partner commerciale a livello mondiale. Ogni anno Teheran acquista prodotti per 1,1 miliardi di euro dall'Italia, ma potrebbero salire, se ho ben capito, fino a 3 miliardi entro il 2018. Lo chiedo al nostro inviato a Teheran, Vincenzo Miglietta, buonasera. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, numeri tutti giusti quelli che anticipavi, Sebastiano, sono 3 miliardi al 2018, ma ben 7 miliardi entro il 2025. Di export verso Teheran. Verso l'Iran, L'Iran, numeri questi che ci hanno ricordato in questi tre giorni del forum che l'Italia sostanzialmente aveva già raggiunto prima del 2010-2011, quando poi sono scattate le tagliole delle sanzioni e che hanno messo in difficoltà il nostro paese, che era ed è stato per anni uno dei principali nell'interscambio proprio con Teheran. Della politica dell'ENI verso quei paesi, andiamo indietro col tempo. Prego, Vincenzo. Beh, ma indubbiamente qui in Iran ricordano Mattei, ricordano l'ENI, ma ricordano soprattutto il fatto che in realtà ci sono state queste sanzioni che verranno meno, c'è stato l'annuncio a luglio, ma ufficialmente verranno meno ai primi di gennaio, ma in realtà è stato ricordato come l'Italia poi in realtà non sia mai andata via dall'Iran. Vi sono imprese italiane che hanno continuato a produrre in quei campi logicamente non sensibili e dove si poteva continuare a produrre, ed è questo l'aspetto che è stato sottolineato soprattutto dal vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha fatto questo parallelo tra il tessuto imprenditoriale italiano contraddistinto da un'alta percentuale di piccole e medie imprese, molto simile al tessuto imprenditoriale dell'Iran. Possiamo ascoltare Calenda. L'Iran ha prima di tutto ha un gigantesco potenziale di paese, stiamo parlando di un paese che arriverà a sfiorare nel tempo 100 milioni di abitanti, che ha una tradizione industriale, che ha una tradizione di cooperazione con l'Italia molto forte. Deve ovviamente ammodernare tutto il parco industriale, non solo quello industriale, anche quello dell'oil and gas. La caduta delle sanzioni, che partirà di fatto dall'implementation day, che ci aspettiamo essere tra gennaio e febbraio, rimetterà in moto tutto il settore economico, che vuol dire che per il settore delle macchine, per le macchine utensili, per il settore dell'automotive, dove l'Iran vuole diventare l'ottavo produttore mondiale e ha programmi di crescita significativi, per il settore dell'oil and gas, per le infrastrutture, e questo può diventare un mercato fondamentale. In un momento in cui diciamo abbiamo molte cattive notizie dal punto di vista economico, parlo in giro per il mondo, con la crisi del mercato russo, i paesi emergenti che svalutano, i problemi sulle materie prime, l'Iran può essere davvero l'elemento positivo che ci fa recuperare sul piano delle esportazioni nei paesi non UE e comunque nei paesi non OCS. Perché l'Italia dovrebbe arrivare un momentino prima rispetto a grandi economie europee e occidentali? Ma perché eravamo il primo partner commerciale, i legami che ci sono sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico sono talmente forti, per cui è del tutto naturale che noi ci ricollochiamo, il nostro obiettivo sia ricollocarsi in una posizione di leadership. Questa è la ragione per cui facciamo qua oggi, siamo con la più grande missione che l'Iran abbia mai ospitato in termini non solo di dimensione ma anche di qualità delle imprese, quasi tutto il sistema bancario, la SACE è disponibile a mettere sul piatto anche più dei 5 miliardi di euro che aveva prima per finanziare l'attività di commercio con l'Iran. Io penso che ci siano tutte le pedine al posto giusto per far sì che nei prossimi anni l'Iran veramente ci dia delle grandissime soddisfazioni. Allora, Vincenzo Miglietta, così appunto il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Dopo il traffico ascolteremo anche la responsabile dell'internazionalizzazione di Confindustria, Alice Mattioli, ma poi vorrei anche un tuo così commento del tutto non esaustivo, del tutto così soggettivo e personale, ma su che Iran, su che paese hai trovato dopo il traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. C'è c'è molto da fare, perché noi abbiamo avuto ancora nel 2010 interscambi per 7 miliardi, adesso siamo a 1,5 miliardi, possiamo ripartire andando avanti. I settori che abbiamo qui oggi sono 5, ma non sono i soli, perché sappiamo sono automotive, costruzioni, anche come materiali da costruzione, macchine intese come meccanica, biomedicale e oil and gas. Ma per esempio ci sono missioni prossime del Made in Italy che sono anche interessanti, abbiamo i marmi anche che sono con noi, che sono molto forti, e c'è molto spazio per fare cose insieme, e soprattutto le relazioni tra i nostri due paesi sono sempre state forti e di grande rispetto reciproco. Per quanto riguarda il settore auto, vista la forte presenza anche dei francesi, l'Italia punta molto sulla componentistica. Infatti noi stiamo portando, abbiamo portato in questa missione un sacco di componentistica italiana, che noi sappiamo essere campioni del mondo sulla componentistica, che sono qua proprio per sfruttare questa possibilità di venire a fornire aziende presenti. E poi altro settore molto interessante è quello delle costruzioni. Moltissimo, noi infatti abbiamo qui molte persone legate al mondo delle costruzioni. Teniamo presente che vogliono fare investimenti per 4 milioni di unità abitative, ad oggi ne producono 200.000 all'anno, quindi c'è uno spazio mostruoso, quindi imprenditori italiani delle costruzioni, venite in Iran perché c'è spazio per voi. E in che modo Confindustria supporta poi nel luogo qui a Teheran un eventuale imprenditore italiano che volesse investire in Iran? Ma in realtà Confindustria lo supporta già dall'Italia, perché dall'Italia insieme con l'ICE gli procura i B2B per fare degli scambi qui sul luogo, lo aiuta negli investimenti con Siemens e Stace, cioè c'è un sistema completo che lo porta mano nella mano a trovare le soluzioni ai problemi, perché investire in paesi lontani, anche se amici, non è sempre facilissimo. Così appunto Alice Mattioli, responsabile del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione di Confindustria, con il nostro Vincenzo Miglietta, che è in collegamento da Teheran, sulle opportunità per le imprese italiane. Tu hai raccolto anche tante altre interviste che faremo ascoltare domani, perché ci sono anche esperienze di carattere bancario o di singoli settori. Però Vincenzo, nel concludere questo collegamento e nell'augurarti anche buon rientro dopo, che paese hai trovato come impressione soggettiva, personale, senza nessuna volontà di essere, diciamo, analitica? Sì, ho trovato un paese che sicuramente ha molta voglia di aprirsi all'esterno, lo vedi incontrando le persone dall'albergo al tassista, un paese che indubbiamente su tutto ciò che riguarda il vivere quotidiano è fermo forse ai nostri anni 80, dalle macchine a tutto ciò che può essere l'oggettistica quotidiana. Quindi il sistema politico del paese lo conosciamo, è inutile tornarci sopra, ma sicuramente io ho avuto sicuramente un'impressione molto positiva. Anche perché sei ancora lì e devi uscirne, no? Ha tolto alcuni stereotipi che probabilmente avevo e che forse hanno molti in Europa. Ma questo interesse, adesso, al di là della battuta, nessuno vuole esportare quello a Tel, quello di Parma, cerchiamo di essere seri in Iran, ma al di là delle potenzialità, guardate che i numeri che citava Calenda erano i numeri che sostanzialmente facevamo prima, a valori correnti, prima dell'embargo. Dicevo, l'interesse verso l'impresa, il rapporto con l'Italia, perché non è mai stata una potenza coloniale, sicuramente non in quell'area, ha sempre avuto un approccio diverso, tu li hai registrati? Sì, ho registrato proprio questo, lo dicevano sia Calenda che Mattioli, c'è una grande riconoscenza, forse è un termine esagerato, ma viene ricordato che comunque l'Italia ha continuato negli anni ad ospitare in Italia studenti, imprenditori nelle varie fiere, e questo legame non si è mai sciolto. Ricordavamo nei vari incontri, anche oggi abbiamo fatto un incontro a 200 km da Teheran con la Innergas di Brescello, che costruisce caldaie, e loro non sono mai andati via dall'Iran, e quindi questo a testimonianza che comunque è un paese dove si può lavorare e produrre anche per chi viene dall'Italia. Sì, poi ci sarebbe tutta la riflessione politica da fare, c'è un Iran più aperto che crei un po' di classe media, forse, passatemi il termine, laicizza il paese, diciamo, apre il paese, quindi aiuta anche un processo di maggiore integrazione dell'Iran, al di là poi del fatto che in questo momento tutti guardano gli sciiti come l'unico baluardo contro i sunniti, cioè i terroristi sunniti dell'ISIS. Grazie Vincenzo Miglietta, e adesso ultimo tema, lo affrontiamo, iniziamo ad affrontarlo, poi magari lo riprendiamo anche domani, e sono le famose dichiarazioni del ministro Poletti di venerdì scorso, che ha detto, insomma, l'ora lavoro non è più un criterio diciamo adeguato o sempre adeguato, un attrezzo vecchio per definire i contratti. È un attrezzo vecchio, ha detto Poletti, perché ci sono i cambiamenti tecnologici. Susanna Camusso gli ha risposto a Stretto Giro, sempre venerdì: smettiamola di scherzare del lavoro, spesso è faticoso, l'orario è fondamentale per tutelare i lavoratori, è fondamentale per definire il tipo di contratto. Però a sorpresa, Poletti ha replicato: i salari devono essere più legati agli obiettivi più che alle ore lavorate. Questo è il tema. Cioè, se devi legare un salario all'obiettivo che ti pone o le ore lavorate. Poi spesso le due cose coincidono, altre volte no. A sorpresa ho notato un'apertura da parte del segretario generale della FIM CISL, Marco Bentivogli. Buonasera. Buonasera. Perché Poletti non ha tutti i torti, Bentivogli? Ma perché il lavoro non è quello che descrive nelle esternazioni la segretaria generale della CGIL e il mio collega della FIOM, perché il lavoro già è sempre più scollegato nella cosiddetta prestazione al vincolo delle 8 ore, 40 settimanali, 11 mesi all'anno. Il lavoro è sempre più ha una dimensione spazio-temporale totalmente diversa. Allora queste reazioni sindacali un po' pavloviane sembrano un po' più collegate al lavoro fordista, neanche degli anni 70, forse agli anni 50. Ma lei che rappresenta i metalmeccanici iscritti alla CISL, quindi una categoria, insomma, che il lavoro sa bene cos'è, che tipo di, cioè, non nessuno parla di sostituire l'orario, non è che dice, no, chi se ne frega se lavori 4 o 10 ore, ma lei che cosa affiancherebbe, diciamo, all'orario classico per definire quanto lavori e quanto devi essere pagato? Per tutti i lavori nuovi e le alte professionalità, e dobbiamo sapere che con un futuro in cui il manifatturiero 4.0 sarà tutto così, non solo alcune parti, la dimensione dello spazio e del tempo, per cui la prossimità con la macchina come era una volta e il tempo di lavoro saranno completamente modificati e relativizzati. E da questo punto di vista lo smart working che si sta diffondendo sia con accordi sindacali sia senza accordi sindacali, in quei casi l'orario a 8 ore più che essere un'opportunità e una tutela per il lavoratore rischia di essere un vincolo negativo per il lavoratore stesso. Allora possiamo noi come sindacato dire che l'autonomia del lavoratore, la possibilità che si ha con questi nuovi lavori e con questo modo nuovo di fare impresa sono negative per il lavoratore? Sono per la prima volta possibilità. Io non ho capito, le otto ore lei con che cosa le sostituirebbe, per esempio? Cioè, non ho Sicuramente già oggi gran parte del lavoro è collegato a aspetti che riguardano i risultati. Già oggi molte aziende, non solo la GM Powertrain di Torino, la ZF di Padova, ma tantissime aziende non hanno la catena di montaggio e hanno il collegamento alla produttività. Questo avviene attraverso la contrattazione e per cui c'è un livello di autonomia, di ingaggio cognitivo dei lavoratori molto più alto. Allora possiamo essere noi quelli che rimpiangiamo il lavoratore collegato con la catena alla sua macchina? Io credo che sia un'idea tutta ideologica di un sindacato che non c'entra più niente con questa realtà. Quindi se ho capito bene, voi dite accanto all'orario in senso stretto bisogna anche iniziare a introdurre parametri come l'obiettivo, che quindi la produttività, e su quelli legare l'incremento salariale, la variabile salariale, non solo le ore lavorate. Sì, alcuni mi dicono, vabbè, lo smart working è come il cottimo, è d'accordo? Ho una battuta. È ritorno al cottimo? No, assolutamente no. Lo smart working è un lavoro assolutamente interessante perché dà grandissima autonomia e collega la prestazione lavorativa a una gestione, a un protagonismo, a una progettazione del lavoro stesso che col cottimo non c'entra allora, nulla. Allora facciamo una cosa, voglio, devo chiudere il programma, però la riavremo ospite anche domani se riusciamo. Adesso si stanno affollando molti temi perché questo mi interessa molto, cioè capire che cosa un sindacato dei metalmeccanici come la CIS intenda per smart worker. Grazie anche per ora a Marco Bentivogli, da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.